l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori del 24, buon inizio di fine settimana, insomma, in questo sabato 21 novembre 2015. Noi terremo, ve lo promettiamo, i nostri sguardi attaccati ai video per evitare perdere qualche sviluppo, che però speriamo non ci sia, almeno oggi, a 7 giorni dalla trasmissione di sabato scorso, in cui, lo ricordate, fummo ovviamente costretti a volgere l'intera nostra puntata, e l'intera programmazione di Radio 24 da allora è andata avanti così, dopo che erano avvenuti i fatti a Parigi. Sapete che questa settimana è stata una settimana ricca, purtroppo, di altri sviluppi. Ieri la vicenda a Bamako nel Mali, stamattina c'è un allarme a Bruxelles, ma speriamo che non avvenga nulla. E detto tutto questo, quindi la compagnia qui dei compari dei conti della Belva, Renato Cifarelli, Mario Seminerio e Oscar, perché Carlo Alberto Carnevale Maffè oggi ha un problema e quindi non è con noi. Ha un problema, lavorare. Di lavoro. Di lavoro, sì. Di lavoro alternativo, io lo dicevo, nel senso che mi dispiace che non sia con noi, però ci sono gli impegni presi precedentemente che vanno onorati. Comunque si è riproposta di riprendere i temi che noi avevamo previsto sabato scorso, perché siamo convinti che restino di totale attualità, perché questa è una settimana nella quale, come ovvio, i temi della vita pubblica, della vita dell'economia italiana, delle scelte dell'economia pubblica, sono più o meno tutti spariti dall'attenzione, però restano sul tavolo, restano sul tavolo. Quindi io vi dico subito, per indurvi a telefonarci, darvi la vostra opinione all'800 24 0024, e lo sapete per gli sms 349 238 6666, che qui seguiremo sia in normale che in WhatsApp con due schermi diversi, ormai sembriamo qui il centro della base NORAD con tutti i missili che devono partire, però sono su questi temi, perché i blocchi di cui ci occupiamo sono su questi argomenti. Iniziamo, lo sapete, come ogni volta, grazie a Mario Seminerio, con uno sguardo a come sta evolvendo in questa settimana la crisi in Italia, nel mondo, rallentamento della crescita economica, un po' di problemini aperti che vengono al pettine nel nostro paese. Domenica è previsto un consiglio dei ministri di una certa importanza per il salvataggio di 4 banche italiane, e tra qualche minuto vi diremo come la pensiamo su una vicenda nella quale la mia opinione, ve lo dico subito, è che l'Italia istituzionale, Banca d'Italia, non solo, non abbia fatto una bella figura in Europa, però bisogna dirlo ogni tanto che si fanno degli errori. E quindi cominciamo con a che punto è la crisi, e anche con qualche valutazione intorno agli effetti che il terrorismo può avere rispetto all'economia mondiale, ai mercati. Draghi ha pronunciato delle parole che fanno capire che si sta andando comunque a un'estensione molto significativa del qui, bisognerà capire di che tipo è. Dopodiché noi partiamo dalla vicenda De Luca, che questa settimana è sparita, anzi vedremo che il CSM l'ha già quasi chiusa, come se non ci fosse bisogno delle indagini della procura, ma il problema del caso De Luca è la riproposizione di una questione generale. Si può pensare a una sanità in cui finalmente non è più la politica, non sono più i partiti a fare le nomine nelle aziende sanitarie e ospedaliere, perché tutto nasce di lì, dal coniuge separato in casa, non separato in casa, dal giudice Scognamiglio, che telefona e dice: mi dovete promuovere se volete la sentenza. Allora, di questo noi parleremo con Giuseppe Ramuzzi, che è il coordinatore delle ricerche per l'Istituto Mario Negri di Bergamo e presidente della Società Internazionale di Nefrologia, un'esperienza sul campo comparata per vedere, ma all'estero funziona così? Sono i partiti, i presidenti delle regioni, le correnti dei partiti a nominare tutti i manager sanitari? Sì? No? E perché in Italia invece tutte le volte che lo si propone ci dicono: ma non c'è possibilità di farla diversamente? Quindi, se siete medici, pazienti o avete esperienza di nomine sanitarie, chiamateci, perché vi mandiamo in diretta con le vostre opinioni. Dopodiché torniamo su un tema, a distanza di 2 settimane quasi dal proposte di Tito Boeri, presidente dell'INPS, per fare una riflessione di fondo. Ogni anno noi ritocchiamo previdenza e sanità con enormi polemiche nelle leggi di stabilità, per qualche miliardo in più o in meno, con riformette a margine più o meno significative, dopo le due grandi riforme, diciamo così, quella di 1995 e quella Fornero governo Monti, ma però perdiamo di vista un obiettivo di fondo, se è quello sul quale vogliamo ragionare insieme ai nostri ospiti in un altro blocco. Cioè, non è che dobbiamo ripensare a un meccanismo per il quale in sanità e in previdenza bisogna immaginare un sistema nel quale chi ha di meno deve avere più copertura, ma chi ha di più deve spendere di più senza cadere nell'ombrello universale, ma cadere in quello privato. Cioè, non è il caso di ripensare in maniera di fondo il nostro welfare, viste le prospettive di demografia, eccetera, eccetera. Non si vedono più riflessioni di questo tipo così profonde nella politica, ed è invece, secondo noi, il caso di avere qualche dubbio in testa. Ne parleremo, diteci la vostra opinione. Poi avremo, come sempre, sta diventando un'abitudine, Rita Fatiguso dalla Cina, e parleremo di sesso ed economia in Cina. Non pensiate che sia vietato ai minori, possono ascoltare tutti. E naturalmente poi alla fine il nostro Renato Cifarelli sul che non si può fare più in Italia, invece continua ad avvenire, per così dire. Ma a questo punto, Mario e Renato, cominciamo da Mario. Questa settimana che cos'è che ti ha più colpito, diciamo, prima fatto arrabbiare, ma anche non fatto arrabbiare, colpito? Ma a parte, diciamo, gli sviluppi del processo di Trani alle due agenzie di rating, diciamo che ieri ho letto, veramente tra ieri e l'altro ieri, ho letto delle cose semplicemente raccapriccianti sul piano della logica, tipo le proprietà che sarebbero così la sorta di pistola fumante che sta alla base di questo complottone, malgrado il direttore generale del debito pubblico al Tesoro Maria Cannata abbia precisato che il famoso derivato chiuso con Morgan Stanley non è stato chiuso per motivi di declassamento di rating. Dopodiché qui ci vorrebbe una puntata ad hoc. Non ci impegniamo troppo, facciamo una cosa molto più pop delle cose che fanno sorridere barra incazzare. Questo famoso emendamento recepito dalle relatrici di maggioranza sul canone Rai in bolletta. Sì, bravo. Sono 10 euro al mese per 10 mesi. Oibò, qualcuno si è accorto che la quasi totalità dei privati in Italia hanno la fatturazione bimestrale. Già. Quindi allora o saranno 5 rate bimestrali da 20 euro e almeno la finiremo lì, oppure non si riesce a capire. Però mi sono approvvigionato alla fonte io. E sono 10 rate perché se va oltre ottobre non sono sicuri di incassare, esatto, entro dicembre. Perfetto. Ecco, questo è il punto vero, ecco. Ma l'esigenza di cassa, per così dire, Rai più Stato, che se ne prende un'altra bella quota della rivenienza che è maggiore di ciò che è promesso alla Rai, comunque non è conciliabile con la fatturazione degli chi offre i servizi di corrente elettrica. Quindi la mia conclusione è: coloro che l'hanno votata non hanno mai personalmente pagato una bolletta in vita propria, perché sennò lo sapevano. E poi ribadiamo, poi c'è un piccolissimo problema dei gestori, perché parlavo con un gestore elettrico e mi dice: guarda, cioè veramente abbiamo la gente che ci telefona e ci dice che non ci paga le bollette se gli mettiamo dentro il canone. Andranno a scomputare, faranno. E poi, ripeto, pagare meno, pagare tutti, non è così. Perché questa settimana l'Unione Consumatori, ogni tanto bisogna dare merito alle associazioni dei consumatori, bravo, quando le fanno una giusta, ma qui è banalmente un rapporto, un quoziente, ha preso il totale del numero delle famiglie italiane che hanno almeno un televisore, lo ha diviso per il numero di abbonati al canone Rai, come indicato nella relazione tecnica alla legge di stabilità, e ha scoperto che l'invarianza di canone Rai, che azzera l'evasione fiscale, è posta a 77 euro in caso di azzeramento dell'evasione, e poi chiaramente mettendoci un 7% di evasione a zoccolo duro verrebbe sugli 83-85 euro, non 100. È vero che il Presidente del Consiglio ha promesso che al prossimo anno probabilmente ci sarà una lieve revisione al ribasso, però già lì è già iniziata l'assalto alla diligenza, no? Del tipo sussidi alle emittenti radiotelevisive, oppure allargamento degli over 75 da 6.800 a 8.000 euro, tutto quello che volete voi. Poi il grosso finirà nel fondo riduzione tasse, in attesa di essere razziato per finanziare nuove spese, per cui non è in Italia pagare tutti, pagare meno, ma è pagare tutti e spendere di più. E certo, e spendere. Questa è l'ennesima conferma. Ricordiamo che anche la legge di stabilità 2016 presentata da questo governo, approvata adesso in prima lettura da un ramo del Parlamento e poi va, sta andando all'altro, e come tutti gli anni il fondo per appunto la riduzione delle tasse per 810 milioni viene razziato dal governo per copertura di nuova spesa. Non è mai uscito un euro a favore dei contribuenti da quello strumento pluriennale, è veramente una presa per i fondelli. E invece a te cosa ha fatto Roberto? Io ho visto la classifica pubblicata come al solito delle tasse sulle imprese, sai, avendo una piccola impresa sono quelle cose che ti mettono assolutamente di buon rapporto umore. Ti annuale alzi, Banca Mondiale con PricewaterhouseCoopers, ti alzi alla mattina, leggi il giornale, ti metti di buon umore, vedi che il tuo socio di maggioranza per i due terzi, allora per chi non lo sapesse, le tasse sulle imprese dovrebbero essere fatte così: un terzo, un terzo, un terzo. Cioè io faccio 100 euro di utile, un terzo lo diamo allo Stato, mi sta benissimo per a copertura di tutti i servizi che mi dà, un terzo lo do agli azionisti e un terzo se lo tiene l'azienda per fare degli investimenti. Così sarebbe una situazione, chiamiamola, ideale. Nel momento in cui abbiamo uno che ope legis perché le leggi le fa lui, si prende due terzi, capite che c'è un piccolo un problema di remunerazione degli azionisti o investimenti. Poi non lamentiamoci che le aziende fanno pochi investimenti. 65% total tax rate sul reddito commerciale lordo, media europea 40,6%. Questa dà l'idea, diciamo, tra l'inferno fiscale per le imprese del nostro paese e la media europea, che non è particolarmente un senza posto poi contare le giornate dedicate, esatto, eccetera, eccetera. Quindi, bene, torniamo tra un minuto con A che punto la crisi. Della belva. Ed eccoci tornati qui, compagni dei conti della belva. Cominciamo con la nostra rubrica e la sua sigla. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. All'inizio dicevamo, per autoironizzare, il seminario in crisi, ma però adesso aspetta, visto che oggi sono dalla parte sua del tavolo, mi allontano perché fosse. Allora, attacchi, Mario, sì. questa settimana quali sviluppi significativi dell'uscita sicura, certa e con passo cadenzato dell'Italia dalla crisi? Ma insomma, diciamo, innanzitutto il giudizio sulla legge di stabilità, no? Abbiamo visto che è un rinvio alla prossima primavera della Commissione Europea. Sì, da parte della Commissione Europea, perché giustamente se si invoca la clausola degli investimenti occorre presentare una lista di investimenti, non è che si possa. Infatti Dombrovskis, che pure non sarà un modello, un mostro di simpatia eccetera, ha detto di certo queste cose non possono essere usate per ridurre la tassazione sulla prima casa e quant'altro. Quindi alla fine è stata una scelta con una motivazione tecnica, nel senso che formalmente l'Italia ha presentato oltre il semestre europeo di quest'anno la richiesta di espansione della clausola degli investimenti, per cui scivola tutto alla prossima primavera. Io sono abbastanza così perplesso, no? Nel senso, io mi sono sempre battuto contro diciamo questa austerità cieca e quant'altro, però adesso mi pare che stiamo lentamente scivolando verso il liberi tutti. Se poi anche eventi tragici come gli attentati terroristici, la minaccia islamista saranno motivo per ulteriore flessibilità di bilancio, tutto ci può stare, per carità. Magari in questa circostanza spendiamo veramente per la sicurezza e non diciamo che facciamo investimenti per poi andare a pagare le caramelle ai gruppi di interesse che ci stanno dietro. Però mi pare sinceramente, cioè, vorrei capire che cosa, verso dove sta andando l'Unione Europea. In buona sostanza, se mi permette, a me sembra che il bilancio di questa settimana sul patto di stabilità e di crescita, cioè la somma dei giudizi regolari emesse dalla Commissione. La Commissione, ricordiamo, mentre dice all'Italia quello che hai appena sintetizzato, dice alla Francia, che comunque presenta un bilancio, terrorismo a parte, ed è tutto precedente a quello che è avvenuto, che ha un deficit 3-3-3-4% l'anno prossimo, gli dà il visto di piena conformità. Se poi aggiungiamo tutto il dibattito sulle spese per sicurezza e qualcuno ci metterà anche la difesa fuori dal patto, la mia idea è che il patto è sostanzialmente morto. Questa è una finzione oramai, è una coperta che ognuno tira da una parte all'altra. È un po' ridicolo, devo dire la verità, che il governo si sia fatto spernacchiare sulla famosa clausola per gli immigrati, con la Commissione costretta a dire: ma come, la chiedete per gli immigrati e poi la volete invece utilizzare per altro? È un po' ridicolo esporsi a sentirsi dire in maniera scontata dalla Commissione: ci chiedete rispetto alla clausola degli investimenti, ma se nella vostra legge di stabilità gli investimenti scendono, ed è una delle componenti. Questo è palese manifesto che gli investimenti scendono, poi bisogna presentare una lista, mentre lo scorso anno aspettavano il piano Juncker, perché ogni anno c'è un piano Juncker pronto a fallire, esatto, sulla rampa di lancio, per cui va bene. Però Oscar, un'altra cosa della settimana: il bollettino mensile dell'ABI, con il più 92% di mutui nuovi erogati, mutui erogati, diciamo gennaio-settembre, però è comparso anche nel lancio di agenzia di stampa, a differenza dei mesi scorsi. Evidentemente all'ABI hanno sviluppato una certa sensibilità o hanno sentito determinate critiche. Sì, le hanno sentite. Perché alla fine c'è un limite a tutto. Ebbene, la variazione dello stock dei mutui gennaio-settembre 2015 su gennaio-settembre 2014 è praticamente invariata. Cioè, i nuovi mutui che sono stati concessi nei primi 9 mesi del 2015 non fanno altro che riportare lo stock dei mutui in essere nei bilanci delle banche a dove erano un anno fa. C'è una variazione che è addirittura 0,04%. Quindi siamo tornati al via, restiamo nel regno della derivata seconda, cioè non un aumento in valore assoluto, ma un aumento della variazione. Va bene, piuttosto che niente, no, meglio piuttosto. Però cioè, il nostro compito, cari ascoltatori, quando ci avete sentito inveire su quel dato che tutti i giornali italiani hanno riportato nei titoli, mutui più 92%, che evidentemente non poteva avere alcun riscontro reale nell'andamento delle cifre dei bilanci bancari, dei bilanci delle famiglie e così via, alla fine serviamo a qualche cosa, perché esatto, si scopre che non è il più 92%, ma è un meno 0,04%. Capite? Un paese che va avanti con un'informazione sui dati di questo tipo è drogato, c'è troppa propaganda in giro. Non c'è fact checking, perché se tu vai a riportare più 92% e non ti balza alla testa in maniera automatica di dire sì, ma in soldoni quanto è più 92%? Esatto. E nessuno si pone questa domanda, o per colpa o per dolo o per ignoranza, è chiaro che si pone un problema di informazione. Esattamente. E comunque, Oscar, se ti ricordi, noi negli ultimi mesi abbiamo seppellito lo spin della variazione dei consumi elettrici, che il governo molti mesi addietro aveva lanciato con grande fanfara, no? Poi alla fine anche lo stesso amministratore delegato di Terna ha ridimensionato. L'ultimo dato è una variazione negativa molto robusta, e non si spiega, anche considerando il numero di giorni lavorati e le variazioni termiche rispetto alla normale stagionale, è una flessione importante. Io non sono qui a enfatizzare nulla, però dico che di volta in volta, se noi lanciamo lo strumento magico che ci serve per capire dove diavolo siamo come congiuntura, poi questo strumento viene impallinato o dal fact checking o dalla realtà, e il tempo vola quando ci si diverte, posso dire solo questo. Poi naturalmente qui la gente continuerà a dire che siamo gufi, invidiosi, che siamo amici di Berlusconi, ma tutto quello che volete, ma noi facciamo puramente uno stupidissimo fact checking. A questo proposito, o qualcuno lo vive sul campo, insomma. No, beh, è chiaro che tanti si irritano, però anche lì l'ABI poteva risparmiarsi con la figura barbina che ha fatto, perché adesso, scusate, ma capisco che la credibilità, molti pensano ma sì, tanto in 2 giorni tutti dimenticano tutto, però più 92 che diventa sullo stock meno 004 è una cosa. Beh, poi visto dal campo, sul campo, se finisce un finanziamento alle aziende, lo ripropongono subito, perché alla fine hanno preso un sacco di soldi dall'ABI, e quindi quelli che glieli restituiscono vogliono ridargli. A proposito di soldi, cari ascoltatori, dubitate quando vi dicono che l'Italia non c'ha soldi nella sicurezza, perché non è vero. Basta andare le tabelle di Eurostat: noi per la sicurezza interna spendiamo più della media europea, la media del ruolo è l'1,7% del PIL, noi spendiamo il 2%. Se andiamo a vedere le spese per le sole forze dell'ordine, noi spendiamo l'1,2% l'anno di PIL rispetto alla Germania che spende da questo punto di vista lo 0,7% e la Francia lo 0,9%. Quindi noi spendiamo di più degli altri. L'unico problema è che noi spendiamo male, perché ci abbiamo polizia, strano, carabiniere, la forestale, la polizia presidenziale, la polizia postale, eccetera, eccetera. E allora queste sovrapposizioni che generano l'idea che la sicurezza sia una specie di welfare, di assistenza sociale, è questo che ci fa spendere male. Ma non è vero che spendiamo poco, spendiamo più degli altri, spendiamo più degli altri, spendiamo meno degli altri nella difesa, perché il bilancio della funzione difesa ristretta è lo 0,8% del PIL, e qui la Francia sta all'1,8%, il Regno Unito sta al 2,3%, ma anche nella difesa spendiamo troppo male, per così dire, nelle vecchie pensioni, in una concezione per la quale nelle forze armate resta un numero troppo elevato, decine di migliaia di unità di marescialli non operativi e così via. In buona sostanza, inutile chiedere alle forze armate italiane di andare a fare conflitti, scarponi sul campo in teatri operativi incredibili, perché anche lì abbiamo speso male, lì un po' meno degli altri, ma nella sicurezza interna parecchio più degli altri. E questo lo dicono i numeri, non mi metto a criticare chi vuole adesso un carabiniere dietro l'angolo, ma il problema è che si sta rivolgendo anche questo in quello che diceva Mario prima, deficit, ogni motivo è diventato un motivo per fare deficit in più. Vabbè, è così che poi a parziale cosa su come spendiamo, va detto però che la conformazione del territorio italiano è molto particolare. Io che sono abituato ad andare all'estero, noi abbiamo una caterva di piccoli comuni, di frazioni, di cose di questo genere, dove abbiamo magari il vigile urbano, la piccola stazione dei carabinieri, eccetera. Cioè, io che sono abituato a viaggiare molto in Europa, se tu viaggi in Francia, in Germania, in tutti questi paesi, trovi enormi territori che sono senza paesino o senza il... No, l'orografia chiede il suo prezzo, per così dire. Però... oltre a tutta la parte appenninica. Che poi, però se tu hai microcomuni, perché non li hai mai accorpati, insomma, come vedete... No, questo è un altro... ho capito, però le circoscrizioni amministrative da questo dipendono poi alla fine. La proliferazione di sede, l'overstaffing sovrapposto che non fa sinergia, alla fine spendi di più per avere meno sicurezza. Questo è il punto di fondo. Sull'intelligence non voglio dire, perché i bilanci comparati fanno dell'intelligence italiana un vero nano, ma anche lì spendiamo male, perché noi ci occupiamo poco della sicurezza tecnologica, di quella informatica, del cybercrime e così via, e crediamo che sia avere un po' di informatori in giro per le capitali europee. Adesso così è un giudizio troppo tranciante, ma è solo per dire che guardatevi dal mito: adesso finalmente ci liberiamo dei vincoli di bilancio perché così affrontiamo Daesh. Ecco, se Daesh è il motivo per fare deficit e debito, non ci siamo proprio, per così dire. Però questa naturalmente resta la mia opinione. Un ultimo flash su a che punto è la crisi bancaria, perché noi siamo reduci, cari ascoltatori, anche se i giornali su questo sono stati molto zitti, da 10 mesi di trattativa a vuoto con Bruxelles da parte della Banca d'Italia e del governo su i meccanismi di salvataggio bancario, con proposte viziate evidentemente in maniera chiara dal difetto di essere aiuto di Stato, proposte in maniera testarda per molti mesi a Bruxelles. La risposta è stata no, ve ne abbiamo più volte parlato. Adesso, domenica, all'ultimo secondo, appena recepita la direttiva sul bail-in, per capirci, quella che entra in vigore a gennaio, e dovendo mettere in poche ore in piedi il meccanismo di risoluzione della crisi, una nuova unità affidata a Banca d'Italia, domenica arriva un decreto per intervenire nelle 4 banche commissariate, le prime della lista, dalla Banca d'Italia. Ve ne avevamo più volte parlato da questo punto di vista, e quindi stiamo parlando di Banca Marche, Banca Etruria, Rovigo, Ferrara, e in queste ultime ore in maniera concitata c'è l'intero sistema bancario che riservatamente tratta su come mettere in piedi uno schema di intervento al quale Bruxelles dica no e che contemporaneamente non sia quello del bail-in, perché poiché non si può in poche ore mettere in piedi il meccanismo di finanziamento ordinario dello strumento di risoluzione, che sarà l'arma nelle mani di questa nuova unità che si occupa delle risoluzioni delle crisi bancarie presso Banca d'Italia, bisogna chiedere, questo è quello che si sta facendo, alle 5-6 maggiori banche italiane di erogare una specie di anticipo ponte e poi mettere in decreto che sia il fondo a subentrargli. C'è il rischio molto concreto, da quello che so io, che di questa manovra faccia parte sin dall'inizio la conversione di parte di azioni senior delle quattro banche in cui si interviene, cosa alla quale io sono a favore, tutte le banche sono naturalmente contro. E tutto questo è fatto in una opacità totale, con i media italiani che invocano basta con Bruxelles che ci dice, quando le norme di Bruxelles erano chiare ed è stata colpa del sistema e dei regolatori italiani averci sbattuto la testa contro, visto che già nel caso di Tercas ci avevano detto guardate che sono comunque aiuti di Stato se lo fate così. Ecco, questa è la per me dolorosa pagina della mancanza di responsabilità dei regolatori italiani sul sistema bancario italiano. Siamo sempre in ritardo, come al solito. Non siamo solo in ritardo, siamo in presenza ancora di connivenze molto profonde tra chi crede ostinatamente di difendere qualità dei propri attivi che non è affatto allineata alla nuova solidità necessaria, di poter risparmiare su aumenti di capitale fatti sul mercato e diluendosi, e con un regolatore, la mia opinione personale, che non capisco come e perché troppe volte si rende parte cooperante di questo. Avete passato 10 mesi a sentirvi dire che utilizzavano il fondo a tutela dei depositanti per salvare i problemi degli azionisti. Ecco, questo solo fatto dice come stiamo ridotti. Mario, non ti chiedo solo due parolette dal punto di vista istituzionale. Siamo in ritardo siamo stati in ritardo sul recepimento della direttiva di risoluzione delle banche, la stiamo gestendo veramente con grande affanno. In mezzo a tutto ciò non passa giorno senza che si leggano su tutti i giornali italiani dei dotti editoriali a favore dell'autonomia delle banche, incluse banche che sono piccole banche di distretto dove c'è il solito notabile di turno che fa il bello e il cattivo tempo. Io direi, ragazzi, basta, perché è arrivata la realtà e adesso bravo. Dovete veramente tacere, perché i danni che avete prodotto sono qualcosa di enorme e abnorme. Questa è semplicemente una parte, una piccolissima sfaccettatura dell'inadeguatezza della classe dirigente italiana. Guardate, a me non frega nulla che adesso arriveranno i soliti a dire ma le Landesbanken tedesche, non me ne frega nulla. La realtà italiana è che si continua a buttare la spazzatura sotto il tappeto. A furia di buttare la spazzatura sotto il tappeto, questo paese è diventata una gigantesca discarica abusiva che è popolata da dotti commentatori che ti spiegano dove devi vivere e come devi vivere. Per cui questi episodi, senza andare a scendere nello specifico, vedremo domani il Consiglio dei Ministri, esatto. Sarà una toppa, vabbè, vediamo se sarà una toppa non peggiore del buco, però sono semplicemente i piccoli risvegli alla realtà di un paese che continua a vivere fuori da quelle che sono alcune regole di razionalità di base. Ok, ricordo solo a tutti che si è fermato in questi mesi il processo promesso di fusione delle popolari, che intanto hanno cambiato forma giuridica e che dovrebbero diventare una, due al massimo, e invece attualmente non c'è verso, e l'intero disegno di razionalizzazione e sinergia delle quasi 390 banche di credito cooperativo locali. Viva l'Italia che corre e stupisce il mondo! Torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta, 10:40 primi, tanta pubblicità, cari compagni dei Conti della Belva. Mario Seminerio, Renato Cifarelli e Oscar Giannino. Andiamo subito al punto, punto che nacque alla nostra testa di fronte all'inizio della vicenda De Luca. Questa settimana, anzi l'altro ieri, c'è stato uno sviluppo che è già quasi definitivo sulla vicenda De Luca, lo ricordiamo, degli indagati, tra cui un giudice di Napoli, giudice Scognamiglio, il suo marito, che abbiamo scoperto essere un marito ma con a rapporto finito, l'avvocato Manna, il braccio destro, capo della segreteria di De Luca, lo stesso De Luca, perché l'avvocato Manna, coniuge del giudice Scognamiglio, contatta la segreteria di De Luca dicendo: beh, insomma, se volete questa sentenza favorevole sulla legge Severino, no, fatemi crescere di livello come manager sanitario. Ecco la vicenda. Il CSM questa settimana, rendendo pressoché inutili le successive indagini formali della procura, ha già stabilito a tutela del giudice Scognamiglio che in parallelo povero, il colpevole di tutto è l'avvocato Manna, che ha millantato credito, si è inventato tutto. Certo, il giudice verrà trasferito ad altra funzione, ma il giudice viene in buona sostanza tirato fuori. È chiaro che se questa è la ricostruzione del CSM, le indagini formali della procura conteranno ben poco. Come evidente, De Luca è una vittima. Quando ci sono magistrati di mezzo, le indagini formali che servono a tutti i cittadini non servono, perché il CSM è in commissione in pochissimi giorni e senza sentire nessuno, tac, stabilisce la vicenda. Ma questo riguarda la vicenda. Il punto che interessa a noi è che se non ci fossero le nomine dei partiti della politica in sanità, tutto questo non avverrebbe, e invece questo è un paese che continua a fare le nomine così, nelle aziende sanitarie, nelle aziende ospedaliere. È vero, come dice la politica, che non c'è alternativa? O nel resto del mondo, come noi temiamo, supponiamo e auspichiamo, vorremmo che fosse così, invece va altrimenti? Ecco, per parlarne abbiamo due ospiti che ringrazio. È con noi il professor Giuseppe Remuzzi, che è il coordinatore ricerca dell'Istituto Mario Negro di Bergamo e presidente della Società Internazionale di Nefrologia. Buongiorno. Buongiorno. E Guido Filippi. Guido Filippi è un giornalista del secolo XIX e tra l'altro cura un blog, Camici e Poltrone, che è una delle cronache pressoché quotidiane più puntute e taglienti di quello che capita, soprattutto a Genova e in Liguria, ma insomma il problema è nazionale, esattamente su questo intreccio di politica, partiti, nomine sanitarie, poltrone nella sanità. Guido Filippi, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno, buona giornata. Professor Remuzzi, è vero che anche altrove sono i partiti e la politica a decidere i manager in tutte le aziende ospedaliere nella sanità o no? No, no, non è affatto vero. Io ho paura quando vado negli Stati Uniti, dovessi parlare con qualcuno delle persone che lavorano con me o in Inghilterra a dire quello che succede da noi. Qualche tempo fa, è una cosa che si riferisce al Sole 24 Ore, ma di fatto lo fanno tutti i giornali. Il Sole 24 Ore aveva dedicato una pagina intera con l'elenco di tutti i direttori divisi per affiliazione politica. Esatto. L'effetto di quella pagina era l'effetto di una scheda elettorale. L'ho guardata due o tre volte. Non c'era direttore che non fosse accanto al simbolo di un suo bravo partito. E per 15 di loro c'era persino l'area indicata tra parentesi. Sì, la corrente, la subcorrente del partito. La corrente, pensavo che effetto avrebbe fatto quella pagina lì. Se io ne parlo con qualcuna delle persone con cui sono in contatto, e non ci credono. In Inghilterra c'è un principio, si chiama Alden Principle. Questo principio qua è stato introdotto da uno che era un Sir John Barton Sanderson Alden. Che cos'è il principio? Separazione assoluta fra politica e scienza e fra politica e medicina. La corruzione si previene solo così. E lui diceva: mescolare politica e scienza è la ricetta del disastro. Una volta ho parlato con il direttore dell'Lancet, mi diceva: fatelo anche voi, non costa niente e rende moltissimo. Ha qualche speranza o qualche fiducia nel fatto che... Ma guardi, in Lombardia, che per anni è stato il posto in cui questa cosa qua era veramente la cosiddetta lottizzazione, sì, è nata in Lombardia, c'è stato una volta un famoso scandalo, una giornalista del Corriere, Elisabetta Rosa Spina, diventata famosa perché con un piccolo registratore aveva registrato le discussioni che si erano... E poi aveva fatto l'articolo su quella. Quella lottizzazione è nata in Lombardia. Adesso però la Lombardia forse fa scuola anche per questa cosa qua. Dopo vedremo come va a finire. Ma hanno detto che faranno una short list. Sì. Cioè avevano 700 candidati. la decisione la devono prendere entro la fine di dicembre. Hanno chiesto tre persone molto conosciute per essere persone molto corrette e competenti di ridurre questa lista a 150 o 170. Perlomeno quei 170 lì si spera saranno bravi. Certo, la successiva sfida è quella di vedere che dai 170 non si cerchi di collocare queste persone con lo stesso criterio, ma io mi auguro di no. Forse qualche speranza c'è. Certo, è una cosa drammatica perché i direttori generali a loro volta scelgono primari direttori di dipartimento privilegiando il criterio di appartenenza politica. E questo è stato per anni il problema più grave della sanità italiana. Io vi sentivo prima parlare d'altro e dicevate parliamone. Ecco, parliamone. Io non vorrei che in Lombardia, per carità, non voglio attribuirmi nessun merito, ma tanti di noi hanno denunciato questa cosa da anni. E chissà che in Lombardia qualcuno non ci abbia ascoltato un pochino, perché questo fatto della shortlist vuol dire perlomeno che uno si pone il problema. Esatto, si pone il problema. Perché guardate che il fatto di scrivere sui giornali in quota Forza Italia, per non dire in quota altre cose, è spaventoso. Vuol dire che uno non si pone il problema, gli sembra normale. Sono completamente d'accordo col professor Muzzi e soprattutto credo che il nostro compito sia quello, tutte le articolazioni della società civile, noi facciamo informazione, i medici, i paramedici, le associazioni dei consumatori, dei pazienti, eccetera. Beh, io credo che su questo ci dovrebbe essere una grande battaglia dal basso. La politica di suo non lo fa perché perde potere a farlo, perde potere sugli acquisti, sul procurement, sull'organizzazione delle cordate, sulle promozioni, sugli indirizzi politici da dare alla sanità, perché c'è anche questo, come si è visto in Lombardia, non a caso una regione nella quale c'era una percentuale molto più elevata di attitudini all'obiezione su questa o quella cosa, dove c'era il fattore ideologico politico di mezzo. Però detto tutto questo, la politica da sola non lo fa, non farà procedure di evidenza pubblica per gli incarichi più rilevanti con gli annunci anche internazionali sull'Economist e sul Financial Times, di suo non gli viene. O ci diamo da fare noi, oppure quindi viva il professor Remuzzi che dice intanto abbiamo aperto una breccia con lo shortlist, poi si tratterà di cambiare sistema, ma bisogna che noi lo facciamo, perché altrimenti De Luca sorride su chi gli fa notare le nomine politiche, perché dice cosa volete da me. E soprattutto la vicenda campana, purtroppo, che si avvia una chiusura che non fa, secondo me, giustizia, perché non approfondisce i meccanismi attraverso i quali, una volta contattati dal marito del giudice, ma com'è che a quel punto né il braccio destro del governatore Campano né il governatore Campano hanno ritenuto opportuno di andare dai giudici? Perché evidentemente quello è il meccanismo con cui si fanno le nomine, capite? Questo è il punto di fondo che interessa a me. A me non interessa la condanna De Luca, del suo braccio destro, a me interessa che questo fatto rivela esattamente la questione di come si procede ai contatti per organizzare le cordate delle nomine nella sanità. Questo è il punto di fondo. Torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta con i compari dei Conti della Belva e il professor Giuseppe Remuzzi, che abbiamo appena sentito, il presidente della Società Internazionale di Nefrologia, che ci ha spiegato come equalmente, impegnandosi, insomma, almeno si apre qualche breccia in questo grande mercato trasversale e opacissimo delle nomine politiche nella sanità. Però ecco, chiedo al collega Guido Filippi, che appunto è molto salace nel descrivere attraverso quali meccanismi, sotto la luce del sole e dietro i veli dell'ipocrisia, passa questo mercato permanente delle poltrone politiche sanitarie. Tu, Guido, ci credi al fatto che riusciremo a ottenere qualcosa o questo rimarrà una prassi costante della politica italiana? Ma non lo so, io credo che se li marchiamo stretti, come si dice, se ogni tanto li smascheriamo, provano un pochino più, hanno un po' vergogna forse di farsi prendere, come si dice, con le mani nella marmellata, e forse certe cose non le fanno. In alcuni casi, perché poi vediamo che continuano a farle, è vero, la shortlist l'ha già fatto la Sicilia, poi hanno scelto, sono scesi a 30, e poi hanno scelto quelli che dovevano scegliere, esatto. Poi scegli anche quello che non è lottizzato, che non è raccomandato, ma dopo due mesi questo fa quello che vuole lui e non quello che vuoi tu, che sei la giunta che governa quella regione, e quindi lo mandi, e quindi trovi il motivo per mandarlo a casa, lo fai dimettere perché la delibera su un appalto questo non la firma, e questo è il modo più semplice. Quindi non c'è solo il fatto di fare questo, ma anche di mettere queste persone nelle condizioni di lavorare e di lasciarli lavorare. Io non mi scandalizzo che ci sia un manager più vicino a quel partito o a quell'altro, l'importante è che sia un manager bravo. È come il discorso dei primari, fanno i concorsi, se prendono quello che ha la tessera del PD o di un altro partito, a me non preoccupa, non mi dà neanche fastidio. Mi dà fastidio se questo non è capace, se questo è il miglior chirurgo che c'è in circolazione, non mi interessa se ha la tessera, mi interessa che sia bravo. Il problema è che spesso scelgono persone che non hanno qualità, e lo stesso vale per i manager, scelgono manager che sono dei signor sì, che hanno in mano per poter fare quello che vogliono, perché la sanità è il grandissimo centro di potere. In ogni regione l'80%, e non andiamo oltre su altri aspetti, ma l'80% del bilancio, tra il 70 e l'80%, è rappresentato dalla sanità. E quindi è lì il potere, è lì che gestisco voti, gestisco tutto, secondo me, quasi tutto attraverso la sanità, perché 8 su 10 nei fondi passano da lì. La mia opinione è che qualcuno in politica un giorno dovrebbe capire che il tema di una revisione generale delle nomine della dirigenza nelle aziende sanitarie e ospedaliere senza scelta diretta di presidenti e assessori regionali, cioè con un canale separato dalla politica, fatto solo per valutazione dei titoli e merito, questo è una battaglia secondo me molto popolare, è una proposta che deve essere fatta non in maniera semplificatoria e populista, è una proposta che deve essere fatta da qualcuno che conosce la realtà sul campo, della delicatezza, della responsabilità, di quali sono i tipi di occupazioni vere, di scelte vere che fanno i dirigenti sanitari e ospedalieri. Però quella è una grande battaglia di trasparenza e di ridefinizione del perimetro delle competenze dello Stato nel nostro paese. Ci sono modelli diversi in Europa e nel mondo, ma ce ne sono di modelli di efficaci da cui prendere diretta ispirazione. Non credo tanto io all'idea che basteranno le shortlist. Il problema oggi è ogni scandalo che avviene in sanità tornare a picchiare come magli su questo, però ci vuole una scelta diversa, completamente alternativa. La sanità nelle mani dei partiti è un disastro, per i bravi medici, per la qualità e per l'efficacia della spesa o del procurement della sanità, è un disastro per i pazienti, è un disastro per tutti, perché è una fonte di inquinamento permanente. La destra e la sinistra in questo sono colpevoli, complici. Quando cambiano gli indirizzi, promettono agli elettori in campagna elettorale di cambiare le cose, ma in realtà fa comodo a tutti nominare. C'è anche un problema di organizzazione. C'è un problema di organizzazione, lo so, è molto complesso. Di managerialità nell'organizzazione. Segnalo ai nostri ascoltatori che Radio 24 ci tornerà sopra in discussione in Parlamento rapidissimamente, la vogliono inserire nella legge di stabilità dopo una discussione che è stata rapidissima alla Camera, una nuova legge sulla responsabilità del medico di fronte ai pazienti. È un tema molto delicato, non c'entra con questo di cui parliamo oggi, però è un tema molto delicato perché si tratta, di fronte all'esplosione della conflittualità giurisprudenziale sanitaria di fronte alla quale molti medici non riescono neanche più ad assicurarsi, adesso si stabilisce il principio per cui saranno i pazienti a dover avere l'onere della prova di eventuali maltrattamenti sanitari. Con come funzionano oggi le cartelle sanitarie questo non sarà possibile, noi vogliamo la cartella elettronica aperta a tutti e non manipolabile, ma ne parleremo in un'altra occasione. Intanto grazie a Remuzzi, grazie a Filippi, noi ci sentiamo dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20:30 all'Auditorium Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91. Per Chiedimi se sono felice live. Sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice dei nostri amici animali e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il forum dedicato all'evento. Ciao! Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. la belva. Eccoci tornati in diretta in questo sabato 21 di novembre. Non hai detto il santo conti della belva. Oggi. Non, ma oggi è la presentazione di Maria, se non mi ricordo male. Può essere che mi ricordi male, faccio un rapido controllo. E quindi, non essendo un santo del calendario liturgico, sorvolavo, per così dire. Però mi hai recuperato a questo dovere. Nel frattempo, cari compari, tu mi hai interrotto. Ma tu che mi hai interrotto sei Renato Cifarelli. Dovresti dirlo, lo sai che sei Renato Cifarelli. Ah, io sono Renato Cifarelli. La presentazione della Beata Vergine Maria, vedi che aveva avuto la mamma cattolica, serve allora qualche a dire fa... non aver avuto mamma, per favore, non ho sbagliato, non ti metto. Non ti ho ascoltato il 12, era il mio onomastico. Ecco, vedi, la mattina, e noi lo faccio la mattina, tutte le mattine alle 8:15 con Alessandro Milan, attenti a noi due, ci abbiamo questo rito di commentare i santi del giorno e ci divertiamo molto, perché per esempio ieri Sant'Ottavio è tra l'altro il patrono degli strumenti a fiato e quindi abbiamo sul campo deciso che era il patrono dei italiani, pepe, trombe, dei tromboni, trombe, trombette. E ma c'è San Pinocchio? Scusa, San Pinocchio? No, San Pinocchio non credo che ci sia, anzi, sono perché sarebbe il vero patrono degli attuali politici italiani. Tu dici, non lo so, perché io ricerco attitudini un pochino più professionalmente specializzate. Quella di strumenti a fiato mi è piaciuta tantissimo, a dire la verità. Allora, adesso apriamo un altro capitolo dopo quello delle nomine politiche nella sanità. Questo capitolo è aperto dal dibattito che si è tenuto sulle proposte di Tito Boeri. C'è stato un articolo sul Corriere della Sera che ha colpito molti di noi, a firmarlo Maurizio Ferrera, uno dei più grandi specialisti storici del welfare italiano, che dice sì, ma qui hai voglia a fare riformette a margine ogni anno, il problema è che bisogna fare una riflessione di fondo, poi io dico aggettivo liberale ci aggiungerei, però una riflessione di fondo, cioè la classe media, noi gli stiamo chiedendo contributi generalmente sempre più elevati a difesa di un sistema universalistico che in teoria dovrebbe offrire il meglio del meglio a tutti, con pochissime differenze per il reddito, perché noi chiediamo a chi ha di più, sì, di pagare un po' di più, ma in realtà chiediamo soprattutto al reddito medio, cioè alla parte centrale della piramide dei redditi italiani, di pagare moltissimo. Questa cosa ha un duplice effetto: pagando sempre di più ovviamente il reddito diminuisce, ma anche la qualità dell'offerta sanitaria in realtà e dell'offerta previdenziale, delle garanzie previdenziali, in realtà decade più che migliorare. Allora, diceva Maurizio Ferrera, non è che ci dobbiamo porre un problema che chi vuole meno tasse, cioè e quindi anche minor peso dei contributi a finanziamento del welfare universale, si paghi lui di più i servizi, ma con una fetta della sanità e della previdenza che a quel punto è, non è più parte dell'offerta universalistica, per pagare la quale tutti, anzi la parte centrale della piramide dei redditi italiani, sta pagando sempre più troppi contributi, mentre la qualità dell'offerta e la garanzia previdenziale decade, cari giovani per il futuro. Questa banale domanda, che è una banale di fondo sulla struttura, una domanda sulla struttura di fondo del welfare italiano, ci ha colpiti, perché la mia risposta è sì, naturalmente bisogna vedere poi come si fa, però la mia risposta è sì. Allora, su questo riflettiamo, però prima di riflettere su questo, iniziamo con qualche telefonata anche da parte vostra. Giuseppe, che ci chiama dalla provincia di Torino. Prego, Giuseppe. Salve, buongiorno. Carissimo. Ascolti, sì. Io da tempo volevo chiamarla in merito a quando ho riportato in generale su tutti i media sulle pensioni. Sì. E in particolare da quando più volte lei ha affermato Boeri. Io le dico... Poniamo il caso che lei domani mattina venga assunto a sole 24 ore con un contratto di 100.000 euro, no, a tempo indeterminato. Dopodiché il consiglio di amministrazione del sole 24 ore decide di assumere 10 persone. Viene da lei e da altri suoi colleghi che assunto già da tempo e che percepiscono 100.000 euro e dice sapete cosa c'è? Siccome il sole 24 ore comunque economicamente ha un buon bilancio e io devo assumere 10 persone, perché non mi date 10.000 euro a testa lei e i suoi 99 colleghi in modo che assumiamo questi signori? Ecco, io ho fatto un attimo il confronto con quanto vorrebbe togliere a chi versate per 36-40 anni contributi veri, IRPEF vere, e spostarlo su chi ha delle pensioni sociali o a chi nel passato ha evaso e ha comunque delle pensioni minime, cioè dovrei fare io di assistente sociale anziché lo Stato con interventi appositi. Allora, chiarissimo Giuseppe, naturalmente io sono favorevole al fatto, lo ridico per la 170esima volta, del ricalcolo contributivo degli eccessi di trattamento per le pensioni sopra i 5.000, non 5 volte il minimo come propone Boeri, per sopra le 5.000 degli eccessi sul trattamento che si incassa rispetto al monte contributi versato. Stiamo parlando delle pensioni retributive, siccome siamo un po' competenti sappiamo anche che nelle pensioni retributive c'erano dei freni all'ammontare, non è caso tecnicamente di ricordare, però c'è anche chi col contributivo ci guadagnerebbe, lo sappiamo tutti, però questo è il mio criterio e io penso che ci sia un problema di equità intergenerazionale per i giovani. Non sono favorevole a quello che dice Boeri sul fatto che questo si utilizza per fare un reddito minimo per gli over 55 anni. Detto questo, il suo esempio sul Sole, ohimè, non è molto appropriato. Il Sole, per esempio, è in contratto di solidarietà per i suoi dipendenti. Ma infatti e viene quindi, fatto come molte aziende italiane, i dipendenti delle società che hanno il contratto di solidarietà, sì, funzionano un po' da bancomat per consentire di minimizzare gli effetti e fanno trasferimenti sociali. E quindi attenzione a fare questi esempi, perché si finisce per fare un esempio che dà ragione a chi vuole intervenire, non che dà torto. Capita al Sole, capita in banche, capita, ecco, quindi capita da molte parti in Italia, e quindi mentre non capita nelle pensioni, attenzione. Vincenzo da Caserta. Sì, pronto Giannino, buongiorno. Aspetti, prima che venga Zanano, che è capitato con i contributi di solidarietà per le pensioni più alte, cosa diversa è proporre un sistema invece di ricalcolo generale oltre una certa soglia. Chiusi la parentesi, perché su queste materie se non si è precisi si viene infiocinati subito. Allora Vincenzo. Giannino, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Sì. Io volevo intervenire un attimo per quanto riguarda le short list della sanità, della non so se è ancora in argomento. Sì, ehi, vado avanti. La domanda è, io vorrei dare il mio piccolo contributo perché sono un revisore dei conti, ho fatto revisore dei conti presso ASL e aziende ospedaliere qui in Campania. Short list in Campania sono da oltre 10 anni, cioè tutti coloro che vogliono fare revisore dei conti, vogliono fare i direttori generali, devono stare all'interno di queste short list. La cosa semplice, quindi evitare che la politica entri in queste, diciamo, nelle nomine, potrebbe essere far parte della short list e poi fare un'estrazione seria dei soggetti che direttori generali, revisori dei conti, che debbono essere estratti per aziende ospedaliere e ASL. Così come viene fatto nelle prefetture per i comuni. Quindi la soluzione ci sarebbe a costo zero, semplice. Tutti coloro che hanno i titoli entrano nella short list, all'interno di questa short list scadono dopo 3, 4, 5 anni, facciamo le estrazioni pubbliche, serie. Lei propone l'estrazione dalle short list per titoli, è un criterio. A me andrebbe già meglio questa delle nomine fatte oggi, esclusivamente per criteri politici. Distinguerei per i piani alti le nomine, per me lì ci vogliono vere e proprie procedure di evidenza pubblica. Cioè, insomma, un direttore generale di azienda ospedaliere che amministra bilanci di molti miliardi di euro, e questo è ancora più rilevante ora che gli accorpamenti sono diventati la tendenza generale in grandi regioni, e quando si amministrano miliardi di euro bisogna essere manager veri, comprovati, mentre noi conosciamo, nei tre che siamo stati qui, conosciamo alcuni casi di gente che noi non gli avremmo dato in mano, con tutto rispetto, neanche l'amministrazione di un garage. Ecco, per essere concreti, in quei casi secondo me ci vogliono vere procedure di evidenza pubblica con un giudizio terzo. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, tornate in diretta ai compari dei conti della Belva. Ci siamo posti il problema partendo da un articolo di Maurizio Ferrera, ma non è il caso di riflettere sul fatto che invece di chiedere sempre di più contributi al ceto medio per un'offerta generale di servizi che in realtà poi decade perché non ce la fa offrire davvero anche l'eccellenza a tutti e così via, non è il caso di ripensare ai sistemi di finanziamento dell'offerta universale del welfare, sanità e previdenza, ridefinendo che cos'è l'offerta garantita a tutti per fasce di reddito, distinguendo chi deve pagare di più per avere di più e distinguendo a quel punto anche però una parte di offerta dei servizi fuori dal recinto universale delle garanzie previdenziali e dell'offerta sanitaria. Allora, di questo abbiamo un ospite per parlare, è un ragionamento generale, sì, però bisogna pure iniziare, e l'ospite con il quale ne parliamo è Giuliano Cazzola. Giuliano Cazzola, ex deputato, ma soprattutto esperto di welfare e previdenza, con un occhio al punto di vista che piace anche un po' a noi, quello liberale. Buongiorno e grazie di essere con noi, Giuliano. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, tornerà mai il momento nel quale la politica è capace di un ragionamento così di fondo sulla sanità e sulla previdenza? Ma io me l'auguro, anche perché fino adesso si stanno facendo delle spigolature. Io sotto, per esempio, agli occhi il testo uscito della Commissione Bilancio del Senato per quanto riguarda la sanità. Ci sono alcuni piccoli interventi, alcuni piccoli tagli, ma niente che abbia quel minimo di respiro strutturale, per esempio, che nel 95 ci siamo dati con la previdenza, che poi abbia avuto poi un effetto importante o meno, questo è un altro discorso. Però nella previdenza abbiamo individuato e siamo stati in grado di individuare quello che deve fare il pubblico e quello che deve fare il privato, quello che devono fare i fondi pensione. Anche se poi di fatto i lavoratori, poi che davvero hanno provveduto a un pilastro previdenziale complementare individuale restano in percentuale troppo pochi. Sì, sì, sono circa il 20%, sono il 22%, una quota di 6 milioni e mezzo, sì. In grosso modo, se poi tiriamo via quelli che nel tempo sono usciti, e il 22% degli occupati. Ecco. Però comunque rispetto alla sanità già qualcosa. Rispetto alla sanità già qualcosa, anche perché poi nella sanità, se andiamo a vedere, è praticamente la cosa più importante che si sviluppa, che trova rimedio in qualche modo nel welfare aziendale. Cioè, noi andiamo a vedere questa nuova forma, diciamo, di tutela dei lavoratori che si è sviluppata nelle aziende e che riguarda alcune centinaia di migliaia di lavoratori, troviamo che al primo posto, diciamo, l'offerta di prodotti sanitari, l'offerta di una tutela sanitaria integrativa è assolutamente prevalente. Tenga conto che in Italia le famiglie, in larga misura le famiglie di tasca propria, perché anche gli strumenti, esatto, diciamo, assicurativi sono poco sviluppati, in Italia le famiglie no, anche perché poi noi non abbiamo la politica non ha riservato ai fondi sanitari privati attenzione, trattamenti, incentivi paragonabili a quelli dei fondi previdenziali. Assolutamente no, cioè, hanno una regolamentazione, diciamo, di vecchia generazione, esatto, nel senso che c'è una possibilità di scontare sul fisco, per in parte sul fisco, la spesa sanitaria privata, che è assolutamente nella generalità dei casi è ripetitiva. Cioè, esatto, le famiglie italiane spendono 30 miliardi per acquistare beni e servizi che, se facciamo eccezione per le cure odontoiatriche, il sistema pubblico garantisce loro, e loro si comprano dal sistema pubblico, si pagano dal sistema pubblico attraverso le tasse. Allora, vorrei sottolineare a chi ci ascolta, ecco, la rilevanza del problema è data da questa cifra che ha sottolineato e richiamato Giuliano Cazzola. Siamo in presenza, nella sola sanità, di una spesa privata, quindi aggiuntiva a quello che tutti pagano per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale, dell'ordine di 30 miliardi, che finisce non solo essere una spesa aggiuntiva, però in realtà per essere rivolta a prestazioni che sono a propria volta nel recinto della spesa e dell'offerta del Servizio Sanitario Nazionale. Capite che così è una, cioè, io la definisco una follia, ma comunque una follia a peso crescente, che non ha molto senso né dal punto di vista del bilancio della domanda, ma né dal punto di vista dell'offerta pubblica. E quindi, Giuliano? E quindi io credo che innanzitutto occorrerebbe fare una, quella che io chiamo, con un po' di deformazione giuridica, un actio finium regundorum, cioè stabilire quello che deve fare il pubblico, per chi lo deve fare, per chi lo può fare solo in parte e per chi invece può anche, per che cose, ecco, può anche evitare di farlo, e quello che invece si può fare, deve fare il privato. Cioè è chiaro che si fa una cosa che non spacca la mela a metà, no? Certo. Si deve fare una cosa che tiene conto dell'età, che tiene conto dell'età, che tiene conto del reddito, che tiene conto delle prestazioni, della qualità e anche dell'importanza delle prestazioni. Però io credo che questa sia una via da seguire, superando un universalismo che in realtà non solo non esiste più. Lei pensi soltanto alla differenza che c'è, no, tra il servirsi della visita medica tramite, diciamo, le strutture pubbliche e tramite l'iniziativa privata all'interno delle strutture pubbliche. E anche in questo caso, insomma, bisognerebbe essere un pochino più realisti, no? Essere un pochino più realisti e prevedere che chi ha effettivamente bisogno riceva una prestazione gratuita, magari pagando solo il ticket, e chi invece, insomma, ce lo può permettere se la paghi interamente. Insomma. Ricordiamo a questo proposito che negli anni la diversa disciplina avvenuta sulle prestazioni intra extramenia, è avvenuta molto guardando alla contrattazione tra politica e medici e con aziende ospedaliere, e poco guardando all'impatto generale sulla sostenibilità economica e finanziaria e rispetto ai diritti dei pazienti. Per cui nell'esperienza di ciascuno di noi sta il fatto che spesso, pur rivolgendosi a un centro pubblico con personale che è dentro il centro pubblico, alla fine, per evitare liste, attese eccetera eccetera, prendiamo la strada, magari con lo stesso personale, di ciò che poi alla fine è tasca nostra privata aggiuntiva e offerta privata aggiuntiva. Una contraddizione ai miei occhi assoluta, però funziona così. Beh, poi per il ticket, almeno per esperienza personale, ci sono alcune cose che per chi ha alto reddito come sottoscritto e quindi non ha esenzioni e cose di questo genere, paghi la cifra che è molto molto vicina a quella che pagheresti se vai in un laboratorio privato facendolo senza ticket. Lo so, però il problema è che cosa voglio dire, Giuliano Cazzola? Io temo che la politica, mentre continua a fare gli interventi spezzettati ogni anno, quindi poi si parte nella legge di stabilità a dire cifra generale di taglio del fondo sanitario, di contenimento dell'aumento del fondo sanitario regionale, commedia con le regioni, commedia sul protocollo di contenimento della diagnostica di cui parlavamo prima, commedia sui LEA a carico del fondo sanitario, così le regioni in realtà spendono ancora meno. Di fatto però sui pilastri generali la politica teme di entrare, perché diventa immediatamente un dibattito ideologico tra chi dice: ah, voi liberisti volete semplicemente diminuire il peso della sanità pubblica. Io temo che a diminuire l'efficacia della sanità pubblica sia il sistema attuale. Invece lei che pensa, Cazzola? No, penso anch'io che sia così. E poi guardi, ci sono questi settori, come le categorie che operano in questi settori, che diversamente dai metalmeccanici, se un metalmeccanico non gli rinnova il contratto, lui dice che il padrone è cattivo perché non gli rinnova il contratto, no? Se a un medico invece non glielo rinnovi, o una categoria, diciamo, paramedica non glielo rinnovi, questo dice che è un attacco alla sanità pubblica. Già. C'è questa sostanzialmente questa identificazione con un particolare, con lo stato sociale di queste categorie. Lo stesso vale anche per gli insegnanti, no? Se attacchi in qualche modo le loro condizioni contrattuali, non è che fai un'operazione di carattere parasindacale, diventa subito la cosa ideologica. Diventa una cosa ideologica. E questo spiega perché poi le grandi riforme della scuola sono più per regolarizzare i precari, per carità, hanno i loro diritti, l'ho sempre detto. E poi però ritoccano poco l'impianto dell'offerta, quella che genera il mismatch poi tra ciò che le imprese anche oggi con le difficoltà vogliono e ciò che davvero il sistema formativo dà come skills ai giovani per poter entrare nel mondo del lavoro. Però quando ho una forza politica, io spero che ci sia a destra nel mondo liberale una cosa simile, perché a sinistra ha più difficoltà, però o comunque da qualunque parte politica c'è qualcuno che riprende in mano i fondamenti di che cos'è la sostenibilità e l'equità di un'offerta pubblica e privata, rispetto a una domanda pubblica e privata, o altrimenti io temo che sarà solo l'abbattimento del livello medio dei servizi e la crescente insostenibilità di ciò che tutti contribuiamo a pagare, a metterci nell'angolo. Sbaglierò? Ricordo nel 92, quando il governo Amato, insomma, sconvolse tutto il mondo, sostanzialmente butto operario, fu il primo governo che mise insomma mano a riforme importanti. A un certo punto nella sanità introdusse alcuni limiti di prestazioni per chi guadagnava più di 40 milioni l'anno, allora si parlava di milioni l'anno, no? E venne fuori un putiferio. I primi a mettersi di traverso furono le assicurazioni. Assicurazioni che dissero che loro non erano in grado, cioè di supplire a quel vuoto che si veniva a creare nell'assistenza pubblica. Allora, io intanto ringrazio Gennaro Cazzola. Sentiamo Massimo da Genova, come la pensa. Massimo non c'è più? Massimo non c'è più. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io da 4 anni sono un piccolo imprenditore. Sì. E ho avuto 20 anni di contribuzione, prima da impiegato e poi da dirigente, e ora mi trovo a pagare come piccolo imprenditore i contributi relativi anche all'INPS, sia come socio lavoratore che come amministratore della società. In buona sostanza pago 2 volte l'INPS per avere poi alla fine del mio percorso professionale la somma delle due contribuzioni liquidate con 2 assegni differenti, ma io oggi percepisco dalla società che amministro uno stipendio, quindi tutti i mesi una busta paga, tutti i mesi verso i miei contributi, oltre ai contributi minimi, addirittura non più minimi, che devo versare. Sì, certo. È un assurdo. Poi andrò a fare un cumulo e prenderò 2 assegni. Allora, per esempio, Massimo, il tema che lei solleva, che è macroscopicamente una è molto uno positivo, di quelli per cui a me piacciono la banale proposta di razionalizzazione che avanza Tito Boeri come presidente dell'INPS. Spero che almeno questa gliela faranno fare, cioè quella di unificazione dei trattamenti. Non ha nessun senso continuare ad avere assegni diversi per titolari diversi. Ci sono molti milioni di italiani che si trovano nella sua condizione. Su quella degli amministratori, secondo me è molto ottimista. Vabbè, ma adesso non leviamogli la voglia di fare. Sono già arrivati un po' di conti. Già sono eroi gli imprenditori del nostro paese. Allora, ci sentiamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta ai compari dei conti della Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio, Renato Cifarelli. Carlo Alberto, ci manchi non darci più di questi tipi di preoccupazioni accettando altri lavori. Ma detto tutto questo, prima della nostra appuntamento rituale con pillole cinesi, con riflessioni da Pechino, c'è ancora qualche ascoltatore che però voleva intervenire su 2 temi che abbiamo trattato prima. Cominciamo con Angelo da Roma. Angelo, prego. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire soltanto per dire, io sono una persona di 61 anni che ha stipulato un contratto 41 anni fa con lo Stato, ho versato i miei contributi e quant'altro, lo Stato unilateralmente modifica il mio contratto pensionistico di giorno in giorno, con la riforma Fornero mi ha affibbiato altri 5 anni, pazienza. Ma poi sentiamo per media che le modifiche invece per quanto riguarda gli onorevoli, per quanto riguarda tutto quello che loro riguarda, non si può toccare perché è anticostituzionale. I nostri contratti invece vengono modificati di giorno in giorno. Angelo, lei ha ragione, però lei vede, utilizza una denominazione giuridica che è impropria, perché fosse vero che un contratto non è un contratto, questo è il punto, perché il contratto nasce dalla libera determinazione delle due parti che a quel punto si impegnano a delle obbligazioni che sono reciprocamente, come ovvio, utilizzabili per farle valere in tribunale in caso di non temperanza. Il rapporto tra lei, cittadino italiano, come per ciascuno di noi, rispetto agli obblighi fiscali e contributivi, non è un contratto, è un obbligo asimmetrico, perché questo è il punto di fondo. Lo è proprio costitutivamente, giuridicamente. Questo tra l'altro spiega perché tutti coloro che dicono non si interviene sui diritti quesiti perché è incostituzionale, non hanno idea di che si parla. Innumerevoli volte avviene regolarmente con tutte le grandi riforme previdenziali che lei ha citato, e avviene nella quotidianità anche con le circolari dell'Agenzia delle Entrate. Oimè, sono d'accordo con lei che bisogna riequilibrarlo, però di fatto è un'altra cosa rispetto al contratto. Laura D'Anzio, prego Laura. No, buongiorno. Allora, due cose. Allora, primo, volevo dire solo questo, che a proposito degli stipendi, delle pensioni, ma se riducessero l'IRPEF, ecco che all'INPS potremmo dare molto di più. Primo. Secondo, io sono disposta a pagarmi tutto le spese sanitarie, d'accordo, in proporzione al mio reddito, ma quando mi guardo intorno e vado a fare la fila al ticket, vedo gente che non paga e che io so benissimo che hanno un reddito molto, ma molto più alto del mio, allora qui ritorna l'ingiustizia sociale. Allora, signori politici, vogliamo applicare che chi ha un reddito superiore a X si deve pagare tutto, un terzo, quello che vogliamo. Ma voglio anche la giustizia sociale, perché non è possibile che andiamo a pagarci tutto soltanto coloro i quali hanno un modello di denuncia dei redditi preciso, onesto e insindacabile, e ci sono i grandi evasori, i piccoli evasori o comunque quelli che non pagano il dovuto. E allora questo non mi sta bene. Allora, secondo me, io chiedo a Mario su questo, di coinvolgo Mario e Renato, perché in realtà quando si tratta di qualunque cosa che sia, come si dice in gergo tecnico, mean tested, cioè offerte di servizi di welfare che siano davvero misurate a una capacità di apprezzamento del reddito disponibile, del reddito potenziale individuale e familiare, nel nostro paese si incappa esattamente in questo problema. Che dici, Mario? Sì, c'è questa ennesima distorsione che poi porta anche a ridefinire, ad esempio l'ultima ridefinizione dell'ISEE è stata abbastanza draconiana, no? Perché alla fine si sommano ai redditi e fini ISEE anche le stesse provvidenze che sono previste dalla normativa. Purtroppo, diciamo, è un po' il cane che si morde la coda. Per cui, però io volevo fare una considerazione generale. Sì. Io sono molto d'accordo con l'idea che fu lanciata dalla Corte dei Conti, no? Di cambiare il perimetro delle funzioni pubbliche, perché non ce la facciamo più. Paese in crisi fiscale. Ora noi possiamo... Danni scrivi che infatti sì, pensare di risolvere il problema della spesa pubblica senza prendere questa strada è inutile. Infatti, però il mio timore è che anziché ridefinire il perimetro, ad esempio, dell'assistenza sanitaria in una maniera come stiamo indicando ora, cioè dove c'è un acquisto di servizi nella misura in cui i servizi sono acquistabili, adesso farò anche un altro inciso, noi continueremo a pagare aumenti progressivi di prestazioni in questa sorta di illusione di poter dare quasi tutto a quasi tutti. Esatto. Quindi alla fine l'onere non finirà, farà mai altro che aumentare. Certo. Però un altro ulteriore inciso, attenzione a tutti quelli che dicono ma ci basterebbe una polizza sanitaria magari detraibile dalle tasse, avremmo risolto. Non è così, vedi Stati Uniti, così. Adesso no, per ma, dirne una no ma non è così, perché c'è il problema della selezione avversa. Yes. È il problema che se tu non hai un pool di soggetti che incorpori sia i soggetti massimamente sani che i soggetti seriamente malati o afflitti da patologie croniche, tu non puoi assicurare nulla, perché si crea il fenomeno della selezione avversa. Questo è la base del modello dell'Obamacare, tanto criticato. Allora, o abbiamo il sistema dell'Obamacare, che è un tentativo, diciamo, di aggiustare fortissime distorsioni e inefficienze americane, oppure abbiamo il modello del pagatore unico, del single payer, che è usato sia soprattutto in Europa, ad esempio in Italia, ma è usato anche nel Canada, che è considerato anche una sorta di paese così sui generis per essere un paese americano ma di sensibilità europea, oppure non se ne esce. Quindi attenzione, noi andiamo sicuramente verso una ridefinizione del perimetro dell'assistenza sanitaria. Il mio timore è che verrà fatto malissimo e che si risolverà in un massacro di esborso inutile per tenere in piedi determinate situazioni. Però togliamoci dalla testa che il proiettile d'argento sia polizza sanitaria tutti, magari fiscalmente detraibile. No, perché finché sei sano e devi fare prevenzione, non hai patologie rilevanti, ci stiamo. Sono quando cominci ad ammalarti o la gente esce, diciamo, dal pool degli assicurabili, ti accorgi che cosa succede. Sono d'accordissimo con te e questa è, secondo me, la... Per questo ti ho coinvolto, perché questa era la cosa da aggiungere per dare serietà a questa discussione. Sono il primo a dire, io sono per il mercato, ma qui la questione non è basta che ci sia la fetta più ampia di privato nel mercato. No, qui la questione è capire che siccome bisogna ridefinire l'offerta e la domanda, c'è un problema di individuazione a chi dai tutto. A chi è il reddito? Ma guardate anche alcune patologie, ci sono delle patologie di fronte alle quali il costo delle medicinali per evitare di morire è tale che anche chi ha reddito medio elevato non ce la fa. Esatto. Quindi è un discorso complesso da fare, però bisogna farlo, perché altrimenti noi facciamo decadere le prestazioni e non avremo come pagare. Beh, lì una cosa che aveva detto prima Cazzola e che è interessante è tutta la parte di welfare aziendale. Ecco, allora, che noi però, attenzione, stiamo incardinando aggiuntivamente rispetto al resto, ancora una volta, certo. ed è sbagliato, come dire, no? Allora, da un lato c'è il rischio all'americana che poi le aziende saltino per l'indebitamento dovuto a pensioni e cose di questo genere, perché il tutto va fatto in modo abbastanza strutturato e pianificato a lunghissimo termine. Però, ad esempio, sul discorso dell'avere, diciamo, la media, quindi da quello più sano a quello che magari ha qualche problema in più, se ci fossero dei pool di aziende che vanno a fare le assicurazioni e mettono dentro tutti i dipendenti, è evidente che tu vai a fare una cosa un po' più mediata che sui grandi numeri, esatto, sui grandi numeri delle assicurazioni. Anche perché, voglio dire, non è che la media dell'impresa italiana è General Motors, e quindi a maggior ragione bisogna procedere così, bisognerebbe procedere integrando per settori. Comunque, come vedete, il discorso è molto, per me molto affascinante, e sono grato, lo sapevo che appunto la cosa aggiunta da Mario è la cosa aggiuntiva di serietà del nostro approccio. Vedrete che ci torneremo nelle trasmissioni, ma adesso abbiamo il nostro intervallo, che a questo punto però la Cina lo facciamo dopo un minuto di interruzione ulteriore, e andiamo con Rita Fatiguso, che si è collegata da Pechino per parlarci di economia del sesso in Cina. Della belva. Ed eccoci qua in quest'ultima parte della trasmissione, con l'occhio sempre al famoso col jingle del piano quinquennale cinese, che noi abbiamo sempre pronto in ogni trasmissione da farvi sentire, il jingle del piano quinquennale cinese, che naturalmente ce l'avete in cartella, non lo vogliamo far sentire. Sempre, ecco. Quasi pronto. No, è prontissimo il jingle del piano quinquennale cinese. Non è prontissimo, va benissimo. Intanto il piano quinquennale cinese arriva con una prontezza però irreparabile. Ritas, ci sei? Sì, ci sono, e dato quello che di cui si stava parlando prima, mi veniva voglia di prendere il tema dell'assistenza sociale garantita per tutti, che è uno dei punti più importanti del piano. Però sì, parliamo del sesso. Innanzitutto abbiamo perso noi la nostra predizione sulla valuta e il fondo monetario, hai visto? Abbiamo perso. No, tu hai perso, cioè veramente, nel senso sì, che no, avevi, è vero, chiaramente il mio auspicio, esatto, bravo, sei precisa, hai ragione, ho perso io, è così. Ohimè, perché non so come andrà a finire poi dopo. Però per il momento i cinesi mi pare che dimostrano di fronte al mondo che ottengono quello che vogliono. Ma stanno continuando a tagliare i tassi ogni 2x3 anche per andare incontro al fondo monetario, per dimostrare che sono bravi, che sono virtuosi, quindi vediamo dopo che succede quando, esatto, effettivamente questa moneta finisce nel paniere dei diritti speciali di prelievo, e di come che impatto avrà anche sulla borsa, sull'economia, sugli scambi, insomma è molto interessante da un certo punto di vista. Allora, però hai perso. Ho perso, l'America fa quello che la Cina vuole per il momento, vedremo. Per ora poi. Sì. Senti, sì. Allora, in realtà in Cina fino al 2001, come per il catechismo della Chiesa Cattolica, io spero che voi mi sentiate, sì, perché ti sento invece in questo momento molto lontano. Molto lontano, però mi senti. Noi ti sentiamo benissimo, ma almeno mi senti, mi senti. No, dicevo che fino al 2001 in Cina, come per il catechismo della Chiesa Cattolica, ancora oggi l'omosessualità era un grave disturbo psichico. Esatto. Quindi si finiva, in taluni casi, si finiva anche all'ospedale psichiatrico. Poi è stata abolita questa norma, ma di fatto era un po', e continua a essere un po' mal tollerata l'omosessualità, è vero o no? Sì, da un certo punto di vista nessuno fa piacere trovarsi di fronte a un figlio o una figlia che, a maggior ragione in una società che è ancora frutto di questa politica del figlio unico, dichiara più o meno esplicitamente di essere gay. E sicuramente diciamo che mediamente non è che ci sia questa grande, nessuno fa i salti di gioia. Ecco, quindi in Cina è ancora un problema. È ancora un problema. Ecco, sì, sicuramente è ancora un problema, però una cosa come tante altre cose cinesi è abbastanza tollerata, non essendoci questo fondo, come dicevi tu, appunto cattolico, diciamo un retroterra simile a quello nostro, diciamo italiano, ecco, generalmente non esiste, diciamo, una sorta di, ci sono più margini. Quindi non c'è un bias sociale, non c'è tollerare. Un bias sociale non c'è verso, no, gay e le lesbiche. Assolutamente no. E io volevo consegnarvi questa mia impressione, che così vedo normalmente, vivendo, andando in metropolitana, che io mi sforzo di fare la vita di questi 22 milioni di pechinesi, no? Cioè io sono una cittadina, una città così grande, quindi cerco di capire un po'. Esiste una sorta di, anche nella moda, nel modo di atteggiarsi generalmente, un modo di fare anche da parte degli uomini, soprattutto anche più giovani, che noi difficilmente, ecco, esiste l'uomo con la borsetta femminile. Cioè sono questo femminilizzati. Non vuol dire che sia assolutamente gay, però è una cosa assolutamente molto diffusa. Vedere alcuni ragazzi con delle borsette proprio tipiche, no, della fashion femminile è qualcosa che diciamo noi un po', ecco, anche tantissimi altri piccoli elementi. Questo però non vuol dire che queste persone siano, no, diciamo, ma chi si permette, però ma se dire, le vedono tanti anche qua a Milano di consumo con le borsette, esatto, sì, e veniamo, sì, al consumo. Il consumo, cioè, di questo di popolo è di diciamo di possibili compratori, compratori, una chicca, cioè loro sono veramente un target già ben evidente e già abbastanza in qualche modo individuato. Ecco, anche su giornali tipo China Daily, tipo giornali che sono in qualche modo ovviamente controllati dallo Stato anche dal punto di vista dei contenuti, spesso si ritrovano articoli che in qualche modo sostengono questo tipo questo genere di filone di consumo. Cose. Quindi abbiamo, esatto, targetizzato il consumo omosessuale maschile, omosessuale, insomma, diciamo un po' femminile, esattamente. Cioè non c'è soltanto la parte e quindi questa comunità diventa sempre più consapevole anche di tutta una serie di della propria identità e anche delle proprie, se vuoi, anche dei diritti. Quindi ne vedremo delle belle nel prossimo futuro. È quella classica cosa che c'è ma non si dice, ma che è evidente in qualche però modo, però è evidente, accettata. Quindi diventano, ecco, shopping trender anche in Cina gli omosessuali. È anche molto, infatti faccio un esempio, l'uomo particolarmente femminilizzato è anche un obiettivo delle donne e delle ragazze. Voi, ah, sì, forse è difficile immaginare che ci siano delle telenovelas, in questo caso coreane, in cui gli uomini sono soprattutto, cioè sono molto ben curati, ecco la cosa che si dice in Italia, no? Sono molto curati e esprimono un modello di bellezza che per noi sarebbe veramente molto caratterizzata, ma che alle ragazze cinesi piace tantissimo. E queste telenovelas sono di grande successo tra le ragazze, avendo personaggi maschili di questo tipo. Le coreane sono assolutamente, e quindi anche gli uomini coreani sono considerati i più belli di tutta l'Asia, ma l'uomo coreano che è al centro di questo tipo di telenovelas, che hanno chiaramente un business enorme, sono in grado anche di influenzare i costumi, perché ce n'è una molto famosa che parla di un alieno che è cascato sulla Terra e che si innamora di una di una ragazza, e quindi con tutto quello che questo implica quando poi lei scopre che lui è un alieno, e tu che vieni dalle stelle, questo è, che sei sceso dalle stelle, che sarà capace di influenzare anche un certo modo di, siccome c'era una scena topica in cui loro due si incontravano con la neve cadente fuori in un bar mangiando pollo fritto con la birra, questo tipo di consumo è diventato un qualcosa di assolutamente io dico solo che l'Economist nel numero che è in edicola questa settimana dice che in Cina c'è un enorme problema della necessità di fare educazione sessuale, perché dice che c'è uscire dalla premia del primo figlio avendo questa enorme congerie di ancora ipocriti luoghi comuni contro una aperta cultura sessuale. L'Economist lancia questo tema. Io per non noi so però è molto largo il target, perché tieni conto che dietro a queste cose, oltre alla moda come moda, c'è anche tutta la parte di case, tipo di consumi, come diceva prima, quelli del cibo, quello dei ristoranti, quello di un modo di vivere, che è quello italiano. A me non stupisce affatto. Noi viviamo in un mondo in cui è chiaro che il sesso è uno dei trend per individuare le cose del consumo. La cosa interessante è capire che in Cina, dove i volumi sono leggermente più rilevanti, anche lì non è più il partito a dire che capisci che è rude, macio. Certo, le borsette femminili, ma ci dovremmo pensare, cari ragazzi. Va bene, allora grazie per voi che siete stati in ascolto, tutta la compagnia vi saluta, Mario, Renato e anche Carlo Alberto da parte di Oscar Giannino. Appuntamento lunedì mattina 8:15 con me, Alessandro Milan, in attenti a noi due.